Ciao, come va? Ehi, parlo con te, ma sì, lo sai, è tempo. E come stai? Non dire di no, ma se vuoi aspetto un momento. Ero già qui, ti ho visto, lo sai, sì. Provare a urlare, ma tu lo sai, non è da qui, no, che puoi capire. Allora che fai? Resti così o ci hai pensato al testo? Ridi perché chi ascolta non sa capire il tuo canto. Ok, come vuoi, dai, proviamo a urlare, ma dai, non c'è nessuno che può rubarci il vento. Per te sono due parole, ma che senso? Leggile dai, scritte nel blu, per adescare il silenzio. Oh, dear.